quello che ce l'ha con Mattarella. Sei ancora vivo, sì, Antonio. Certo, visto, io ormai sono passato con Max, hai capito? Mi faccio portare la Tesla qua a casa. Sì, sì, allora fumi. Allora sì che fumo io. Ascolto, mi ascolti in radio. Bene, Tony, ciao, mi hai sentito. Ecco. Ah, ma che mi dice, nasino, un po' metallo, un po' video, bizzarro, manca. No, già stai scendendo bene, la verità. Ho invitato più bello su Facebook, a bestemmie, cazzo. Con uno o con l'altro. Mi vede la vita, ho invitato quando ti vedo. Brutto bastardo, ho avuto quello, ho avuto quell'altro. E per forza, prendiamo il segretario della CGIL, Lazzini. Brutto parassita che non è altro, fa fare sciopero di operai e tu ci mangi un paio di nappi, un cinuto lo vengare. Lo sapevi, Tony, anche tu sei stato sindacalista, lo sai le beghe come sono, il discorso è quello, lo senti di me, quindi a un certo punto lui cosa ha fatto? È passato dalla FIOM alla CGL, perché cosa? Per quello che avevi più si fa sui 6 anni, 7 anni, quelli che sono a rompere i coglioni, a dire cazzate e poi se ne va in pensione e ha detto la bolla in culo, compresa a me. Sì, ma io ero della UIL, che la UIL era socialista, mentre invece Landini è comunista, un pezzo di merda, ladroni. Vabbè, socialista, comunista, democratico, quello che è, oramai, ormai non c'entra più niente, è un magna magna, già lo sai anche tu, quindi sono tutti partiti mischiati, già l'hai visto anche tu, destra, sinistra, sinistra, destra e centro, cavo magna, magna, chi può mangiare mangia, chi non può mangiare se la prende in culo, il discorso è quello, poi non c'entra nulla, è da persona a persona, sono le persone purtroppo, lui è nato da nulla, capito? Faceva solamente casino e basta con la FIOM. Dopodiché l'hanno preso la CGL, dato che era così, adesso a lui si fa i suoi anni, quanti sono? 6 anni, 7 anni, non lo so di quanto sia, dopodiché se ne va in pensione alla faccia tua, si ritira la bellezza di 30-40 mila euro al mese di pensione e tutta la messa in culo, a me a tutt'altro eccetera eccetera, ci pagano, sono, te lo sai, le solite persone, tutti quelli che sono nei sindacati, il discorso non c'entra niente, Maldini o quell'altro o l'altro ancora, sono tutti magnaci, sono ormai non rappresentano più nessuno, hai capito, non gliene frega più un cazzo dei lavoratori, gliene frega solamente lo stipendio loro, il discorso è quello. Ma non è prendere tutti quei soldi stai dicendo, Antonio, Marco Mattarella le piglia 40.000 euro al mese, io Landini prenderà 15.000 euro al mese, che sono ben a tessere, quindi io ho pagato la tessera soltanto per 6 anni quando ero sindacalista e poi dopo da tutti ne fa culo, però questi anni non ho fatto quasi niente, mi grattavo le balle, capito, ed ero pagato, quindi non me ne ha fatto nulla, e i viaggi che mi ha pagato in aereo a Roma, e allora poi a Cagliari, Ghita, Chitato, ma ho visto lo pazzo come ero occhio, allora tutti ne fa culo, tutto qua. Vabbè, comunque, non c'è mai più nessuno di frequenza, tutti quanti a nanna. Non ho più sentito, vabbè, ma tu ogni tanto lo sento, la verità, quindi, se no, a un certo punto, sto all'ascolto, non lo so, comunque sia, qualcuno già c'è, non tutti, ma a volte capita magari che c'è gente, con il genere, e quindi ci si diverte, ma dipende dai giorni, hai capito? Tutto lì. Io guarda, avevo l'antenna staccata che non era punti nulla, sono d'accordo che avete diminuito, ma chi la vede, cioè questo qua è la tua ventre canale. Bacca, non mi interessa più tanto. Con gli amori mi sto facendo conto mio, se un baracchino è. Io la verità c'ho, sto usando le cose sempre il 140, poi c'ho la paglietta l'MS200 e di solito apparecchio vecchio di 20 anni, no, non c'ho nient'altro a parte il PMR che ne ho 2, 4, 6. La Fayette RS200, cioè noi ci sono canali, io ho la Fayette e il 2400 FM che ha 271 canali. Vabbè, ma io mi sono preso l'RS200, mi piaceva e ho pagato 120 euro e me l'ho preso. Poi ho visto da poco, quello stava vendendo 180 euro, figurati tu. Quindi, provato, mi piace, è bellino, non è che sia questo granché, però va bene, è un apparecchio vecchio, devi dargli la tattura sua, già lo sai, che tu, è come avere, come ti possiede il multimode 3, il multimode 2, allora c'è i 120 canali, cazzo, è come avere cazzo, l'oro in casa, cazzo. E le messe le in quinto eccetera eccetera, ci sono tanti apparecchi, il discorso è quello lì, a chi piace, se ne prende uno e va a far culo, diceva quello, lo prova, dato che io non l'ho mai avuto, l'ho provato e adesso vediamo un po'. Niente, io ho la complice di la macchina, che ce l'ho 3 mesi in macchina. Avanti lì stavo cercando di metterli, niente, per operazione che ho avuto la schiena, un casino, adesso ci trovo che almeno me ne faccio mettere a qualche duro, anche io non me ne pongo. Niente, ti devi inchinare, se lui è venuto con l'operazione, vedi Antonè, me l'avrei piazzati, ma non ce la faccio. È scomodo mettere i complicedini, perlomeno per come ti devi mettere per bloccare eccetera eccetera, e io molte mosse con la schiena non la posso fare, e allora ho detto dopo che incontro qualche duro me le faccio pensare. C'è di Giuda Battistino, cazzo, che mi fai pensare da lui, non ti costa niente, da Giaguaro, giù a carica, già te lo ricordi, Battistino Capriccia, c'è di Giù di Vino, dice, guarda Battistino, ti pago, mi dispiace queste cose qua, tanto già te lo fa lui, non è che non te lo faccia. Dici quanto vuole, ma fa il culo, non è che dici vuole a questo garantia per fare 4-6 lire, no? Non è che ti piglia magari 100 euro, no? Ti piglierà di meno, non è questo garantia. No, con pentiero te devo piazzare, se ho fatto la magista, me faccio piazzare la magista. No, Giulia, carica al Giaguaro, ma chi? Ma se io stai dicendo? Sì, è proprio il padre di Monica, Giaguaro, quello parlava baracchino lì alla... Cioè, che parla lì, adesso va bene, sta più entrando, ma abita lì, ai Bombi, già lo sai anche tu, vabbè, quindi... Ma se c'è un Giaguaro e Giaguara, quello che entrava con la figlia. Esatto, sì, bravo. Ma lui, diceva che per i volontari di guerre tropiche, le fatte per i cani, eccetera. Ho capito. Eh? Ho capito. Comunque sia, loro abitavano lì. C'è lui abita lì, ci abita anche la figlia Monica insieme al marito eccetera eccetera, non è che gli costa niente, no? Vabbè, c'è capito mai entrare lì. A dove conti tu invece a compare Alfio, Alberto Fiori? Sì, me lo ricordo, stamattina mi sta Piero Drago, ho visto salire in via Carlo Felice con quella specie di scooter verde, il camioncino verde, con gli occhiali. Lo vedo sempre in giro da Magliette, e all'età mia mi Piero, e niente, sto già accompagnato, non l'ho più sentito, manco più visto. Magari sta lavorando, non lo so, niente di strano, lo sai, arrivati a questa età, capito, a un certo punto non è che li vedi tutti i giorni come una volta, no, 20 anni, 25 anni, eccetera, eccetera. Ognuno chi è sposato, che cosa, che è divorziato, chi è che vive a casa sua, quindi a un certo punto non li vedi più, hai capito, il discorso è quello lì. Quando sei giovane è un discorso, ma quando c'hai più di 30-40 anni a un certo punto non c'è più nessuno lì. Il discorso è quello. Ma lo sai quanti ci sono, 5 minuti in ascolto che non vuole entrare? E non vedi il mondo che noi conosciamo da lei e non vuole entrare, ma in ascolto è poco. Lo so, Tony, lo dillo a me, il discorso è quello. Anche noi facevamo così, facevamo quell'età lì, stavamo l'ascolto, poi la prima ragazza che entrava a baracchino, faceva bene, che sono nuova, e tu direttamente, ciao, buongiorno, sono Tonio Kawasaki, dove abiti? E lei ci diceva, mi abito per dire, vieni la mamma, e tu, mi, ascolta, ci vediamo così, ci conosciamo, eccetera, eccetera, facciamo amicizia. Ma io sono di tu che sei un porco. zitto, non parlare, tu sei peggio. Sì, che ti mandi un itri a me. carità, guarda, lo facevano tutti, lo facevano, che cazzo lì. Tutti lo facevano una cosa, non è già, appena sentivo la nonna, tu ti ha preso, allora non c'era mica il cellulare, no, come adesso. Prima c'era il baracchino e basta, manco se stiamo il PMR, figurati tu. Esistevano solamente i apparecchi, le materiali e basta, esistevano la sua altra cosa. Quindi i primi che entravano su canale 14, tutti lanciati di cazzo. Questo è il coso, è un V5 di Plus. Il baffo, cazzo che ce l'ho in display azzurro, bello, forse me l'ha dato Giuseppe Leoncino, dice te lo compri Torino, allora mi sono alzato, è quello che hai fatto di voi, ci mi tiro, no, cazzo pari ha lasciato 1000 euro, contento, ma c'è mai il bacio dei medit? Questo qua è in pratica, ma questo non si legge bene comunque. Baffe, l'originale sono qua, Sì. Non so se è l'1, 2, 3, come cazzo ne so. C'ha la moletta dietro per attaccarlo qui alla taschina. E per lì noi. Tutto cromato davanti. Tastiera, un stato arancione, l'altro blu. E 25 euro l'uno l'ho pagato io, lo sai, e i primi giorni, che, cioè i primi mesi che li hanno fatti quegli apparecchi, li ho fatti arrivare, 25 euro l'uno, due di quelli lì 50 euro, e prima di quelli ho avuto altri due Baofeng, in pratica l'ho messo dentro la cassetta dei ferri, in pratica al centro storico ho fatto un lavoro, dopodiché sono andato insieme al padrone di casa mio, che pensavo che fosse un amico, invece era stato uno stronzo, gli hanno rubato la macchina, hai capito? E poi ho denunciato a me, come se gli avessi rubato la macchina, quando non c'avevo né patente né un cazzo, a parte la macchina che mi voleva regalare mio padre, ce l'avevo ancora fortunatamente dentro al garage, la cuschia. Adesso mi ricordo il nome. Fanculo. Quella guarda mia sorella, che c'è lì. C'è un lì in garage, fortunatamente mi sono salvato per quel motivo lì, se no gli avevo detto guardi che io ho questa macchina qui e ce l'ho in garage buttata, gli ho detto. Come faccio, gli ho detto, a rubare una macchina? Quando ce l'ho in garage, gli ho detto nuova, gli ho detto, a un certo punto, me lo spieghi lei, gli ho detto, ai carabinieri. Allora mi hanno detto, dice, questo deve essere mezzo scemo, e a me mi sembra che sia tutto scemo, gli ho detto, non mezzo. Perfetto. insomma, se è mezzo etere su, via. Chi c'è ancora in ascolto che vuole entrare, si opera piede a luci. Datore, non vede nessuno, non accade nessuno. Beh, io sono andato a fare, sono finito a misraio e mi riposo un po'. Mi guardo un po' in TV e poi più tardi si gira. Va bene, Antone, dai. Ci ascoltiamo, alle prossime. Ciao, stammi bene. Ciao, ciao. E mia, ciao, poi ci sentiamo. Stammi bene, saluto a te e a tutti. Compresa anche a 5.000, tanto che non lo sono bene, non lo sento. Dato lui che vede la cosa, penso che la vede la bicipo, dato che lui lì, mi sembra bicipo, una cosa del genere, vede con la bonata di Andrea, cioè non Andrea, di Roberta, quindi è fortunato pure che non sono lato. E poi comunque non ci fa niente, ogni tanto accendo e se c'è qualche luna è bene, se no azzurro viene giù, ha giù provato tutte le gare, nulla, ho fischiato qua e così è entrato, se no niente, la gente non ha gara di proprietà, 10 minuti si poteva passare, beh non è voi tanto me, sono stanco, mi appoggio un po' a letto, ok, dai, ce la scopriamo di nuovo, non c'è problema, ciao, stammi bene. Ciao, poi ci sentiamo, tu mi bene, alle prossime ci sentiamo, adesso vi domani mattina, dopo devo andare a fare un lavoro, quindi a un certo punto sono impegnato perché molti poli, buttare una cosa là, faccio una pezza a destra, un po' a sinistra, buttatemi da qualcosa di parare, eccetera, eccetera, devo fare memoria di DVD, eccetera, eccetera, quindi c'è una testa un fumo. D'accordo, ci sentiamo Tony, stammi bene, alle prossime. Ciao ciao. Thank you. ho sentito nessuno. Quindi, se non ci sono solamente io, lui senta qualcun altro e venga un certo problema. Tutti per accetti, chiama quello. Lo so che i russi sono forti, ma mi la mette che sono tutti i giorni ci fanno io. Faccio bene e mi risponde immediatamente subito con questa parità qua, quindi finisco anche tu. Allora, 30, 40 volte e io sono a posto. E mi rispondo subito. Oh, es un micrófono viejo, que trae una resistencia adentro con una bobina o algo. Más viejo que como de 60 este micrófono. Es que jalar así. Sí, ese radio, es un radio en cojones de X99V. Che io vendo tappe, vendo tutto, tutto, poi c'è il logebit in pratica, prima del logebit c'è in pratica, non ricordo c'è una cosa, che ti dice la frequenza la vendo delle fare Thank you. capito, capito. Ma tu non ti preoccupare di quello. Fregatene. Io ti ascolto bene. Siamo vicino a casa, siamo insieme. Perché stare a 50 metri o di più, perché sono di fronte a San Antonio Conte. Quindi se vedi due antenne, in pratica sono di fronte per andare via Milano, sono le mie, come c'è il distributore, sono a Curiti, quindi c'è poco da sbagliare. Bravo, io sono abito proprio sotto la Turia. Qua non c'è nessun altro, non ti preoccupare. Ah, tu sei un ricardo, ho capito. Lo so, ma purtroppo adesso a casa devo aspettare un pochettino, non so se fare l'antenna in casa, quindi per poter parlare, quindi tutta pazienza. Ho capito, non ti arrivi bene, aspetta, se vanno benissimo, non c'è problema, mi sento bene, sei tranquillo, non c'è nessun problema. Sono capito bene, se sei in macchina o se puoi, o se sei in trattura e vuoi preparare una tornata per casa. Mi sono uscito a capire perché in pratica ciò che è successo a te è successo anche a cosa. Quindi a un certo punto non sapete avete un altro problema. Magari ti avete capitato non so se telefono per sbaglio. È certo che ti dicevo, ci mancherebbe. No, no, ti sento bene, non ti preoccupare. Ti sento tranquillo. Va bene, non c'è problema. Io sono mi abito, sì. Bravo, molto lì tu. Molto lì tu, una cosa. Sto dicendo che fa tre. Buona lì tu si chiama. Va bene, ok. Sto scendendo, non c'è problema. Ci vediamo giù. Ok, così ci conosciamo. Ok. Anche lo ripeti tu un po' e poi ci sentiamo lo sposto. E dimmi, ti aspetta ancora, aspetta, sta arrivando un amico qua sotto. Ci stiamo fatto occupare, ok? Sta venendo una persona qua sotto a conoscermi. E spero che sia un amico. Un tipo di nuovo. Come se... Chiamo subito, ok? Guarda che c'è la usine che qualcuno che sta volando molto prima di iniziare, quindi a un certo punto chiamalo di nuovo. A un certo punto ho visto che la macchina andava con la rotella magnetica, due minuti. Aspetta un secondo che c'è una cosa, aspettami qua sotto che sta arrivando subito, non è che 5 minuti, ok?